Europa 24. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha dato il via libera all'eutanasia per il francese Vincent Lambert. Vincent Lambert può essere staccato dalle macchine che lo tengono in vita. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che ha respinto con sentenza definitiva il ricorso presentato dalla madre del 39enne infermiere francese, che chiedeva di sospendere la decisione del Consiglio di Stato d'Oltralpe. A chiedere l'eutanasia per Lambert era stato il suo medico curante, in accordo con la moglie. Lambert, tetraplegico in stato vegetativo dopo un incidente stradale avvenuto nel 2008, vive grazie alle macchine che gli permettono di respirare e di alimentarsi. Il Consiglio di Stato francese si era pronunciato in favore di uno stop alle cure. Oggi, sostenendo che non si tratta di una violazione dei diritti umani, la Corte europea ha accolto il parere dell'autorità amministrativa francese. È un piccolo passo per Lambert, ma un grande passo per la nostra umanità, ha commentato il dottore, che ha avuto in cura l'uomo subito dopo l'incidente. Opposta alla reazione della madre, è uno scandalo, ma ci batteremo ancora. I genitori di Vincent si sono sempre opposti all'interruzione dei trattamenti. La moglie invece, invocando il divieto di accanimento terapeutico, si è battuta per lasciarlo morire. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La crisi greca non usa toni diplomatici. Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, nel commentare lo stato dei negoziati con Atene. I greci, in particolare il signor Varoufakis, mi hanno proprio stancato, ha detto Schulz durante un talk show alla televisione tedesca ZDF. Schulz ha tuttavia ricordato che parte della responsabilità va ai precedenti governi ellenici, che hanno sprecato la possibilità di un vero salvataggio del paese. Schulz ha detto inoltre di non ritenere possibile che la Grecia resti nell'Unione Europea se dovesse scegliere di abbandonare l'euro. Visti gli accordi, non è possibile altrimenti, ha detto. Per Schulz la responsabilità nel portare a buon fine i negoziati è ora nelle mani di Atene. Noi siamo andati loro incontro per un bel pezzo di strada, ora è loro che devono fare lo stesso. I dati Eurostat di giornata: la stima dell'inflazione su base annua nell'Eurozona a maggio torna in terreno positivo, più 0,3%, nonostante il forte calo dei prezzi dell'energia, meno 5%. Disoccupazione in calo ad aprile nella zona euro, da 11,2% di marzo scende a 11,1%, in calo anche quella giovanile. Nella zona euro passa da 22,6% a 22,3%. Il dato più basso in Germania, Austria e Danimarca, e più alti in Grecia, Spagna, Croazia, Italia, che è al 49%. Da Strasburgo, bacchettata all'Italia su servizi segreti, controlli insufficienti. C'è poco controllo sui servizi segreti italiani. L'allarme arriva dal commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muižnieks, che ha pubblicato un rapporto sul controllo democratico dell'intelligence in Europa. Secondo il più alto rappresentante per i diritti umani, il controllo nel nostro paese è stato sì rafforzato in anni recenti con la riforma del 2007, ma rimane uno dei meno forti in Europa. Il COPASIR, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, infatti non ha accesso a tutte le informazioni sugli 007, come accade in altri paesi, ad esempio in Romania, e per farlo deve votare con una maggioranza dei due terzi, con il rischio, dice Muižnieks, che i partiti di maggioranza usino la loro posizione per bloccare le inchieste su determinate attività. Altro capitolo riguarda la mancanza di alcuni poteri, come quello di ispezionare le sedi dei servizi segreti, un potere che hanno gli organismi in Olanda e Norvegia, o come quello di autorizzare o meno le attività di sorveglianza ex ante e non solo ex post, che ha ad esempio la commissione parlamentare tedesca. Il commissario ritiene inoltre che in ogni caso anche i sistemi più forti, come quello olandese, norvegese o tedesco, abbiano bisogno di essere ulteriormente rafforzati, dato che con l'allarme terrorismo i poteri dell'intelligence stanno aumentando. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.